Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Remo Girone legge La luna e i falò di Cesare Pavese. Nemmeno per la Madonna d'Agosto Nuto ha voluto imboccare il clarino. Dice che è come nel fumare. Quando si smette bisogna smettere davvero. Di sera veniva all'Angelo e stavamo a prendere il fresco sul poggiolo della mia stanza. Il poggiolo dà sulla piazza e la piazza era un finimondo. Ma noi guardavamo di là dai tetti le vigne bianche sotto la luna. Nuto, che di tutto vuol darsi ragione, mi parlava di che cos'è questo mondo. Voleva sapere da me quel che si fa e quel che si dice. Ascoltava col mento poggiato sulla ringhiera. «Se sapevo suonare come te, non andavo in America», dissi. «Sai com'è a quell'età? Basta vedere una ragazza, prendersi a pugni con uno, tornare a casa sotto il mattino. Uno vuol fare, essere qualcosa, decidersi. Non ti rassegna a far la vita di prima. Andando sembra più facile. Si sentono tanti discorsi. A quell'età una piazza come questa sembra il mondo. Uno crede che il mondo sia così». Nuto taceva e guardava i tetti. «Chissà quanti dei ragazzi qui sotto», dissi, «vorrebbero prendere la strada di Canelli». «Ma non la prendono», disse Nuto. «Tu invece l'hai presa. Perché? Si sanno queste cose? Perché alla mora mi dicevano anguilla? Perché un mattino sul ponte di Canelli avevo visto un'automobile investire quel bue? Perché non sapevo suonare neanche la chitarra?» Dissi, «alla mora stavo troppo bene. Credevo che tutto il mondo fosse come la mora». «No», disse Nuto, «qui stanno male, ma nessuno va via. È perché c'è un destino. Tu, a Genova, in America, va a sapere, dovevi far qualcosa, capire qualcosa che ti sarebbe toccato. Proprio a me, ma non c'era bisogno di andare fin là. Magari è qualcosa di bello», disse Nuto, «non hai fatto i soldi. Magari non te ne sei neanche accorto. Ma a tutti succede qualcosa». Parlava a testa bassa. La voce usciva storta contro la ringhiera. Fece scorrere i denti sulla ringhiera. Sembrava che giocasse. A un tratto alzò la testa. «Un giorno o l'altro ti racconto delle cose di qui», disse. «A tutti qualcosa tocca. Vedi dei ragazzi, della gente che non è niente, non fanno nessun male, ma viene il giorno che anche loro...» Sentivo che faceva fatica. Trangugiò la saliva. Da quando ci eravamo rivisti, non mi ero ancora abituato a considerarlo diverso da quel Nuto scavezzacollo e tanto in gamba che ci insegnava a tutti quanti e sapeva sempre dir la sua. Mai che mi ricordassi che adesso l'avevo raggiunto e che avevamo la stessa esperienza. Nemmeno mi sembrava cambiato. Era soltanto un po' più spesso, un po' meno fantastico. Quella faccia da gatto era più tranquilla e sorniona. Aspettai che si facesse coraggio e si levasse quel peso. Ho sempre visto che la gente, a lasciarle tempo, vuota il sacco. Ma Nuto quella sera non vuotò il sacco, cambiò discorso. Disse: «Sentili come saltano e come bestemmiano. Per farli venire a pregare la Madonna, il parroco bisogna che li lasci sfogare. E loro, per potersi sfogare, bisogna che accendano i lumi alla Madonna. Chi dei due frega l'altro?» «Si fregano a turno», dissi. «No, no», disse Nuto. «La vince il parroco. Chi è che paga l'illuminazione, i mortaretti, il priorato e la musica? E chi se la ride all'indomani della festa? Dannati! Si rompono la schiena per 4 palmi di terra e poi se li fanno mangiare. Non dici che la spesa più grossa tocca alle famiglie ambiziose? E le famiglie ambiziose dove prendono i soldi? Fanno lavorare il servitore, la donnetta, il contadino e la terra, dove l'han presa? Perché deve esserci chi ne ha molta e chi niente? Cosa sei, comunista?» Nuto mi guardò trastorto e allegro. Lasciò che la banda si sfogasse, poi, sbirciandomi sempre, borbottò: «Siamo troppo ignoranti in questo paese. Comunista non è chi vuole. C'era uno, lo chiamavano il Ghigna, che si dava del comunista e vendeva i peperoni in piazza. Beveva e poi gridava di notte. Questa gente fa più male che bene. Ci vorrebbero dei comunisti non ignoranti, che non guastassero il nome. Il Ghigna hanno fatto presto a fregarlo. Più nessuno gli comprava i peperoni. Ha dovuto andar via quest'inverno». Gli dissi che aveva ragione, ma dovevano muoversi nel 45, quando il ferro era caldo. Allora anche il Ghigna sarebbe stato un aiuto. Credevo, tornando in Italia, di trovarci qualcosa di fatto. Avevate il coltello dal manico. Io non avevo che una pialla e uno scalpello, disse Nuto. «Della miseria ne ho vista dappertutto», dissi. «Ci sono dei paesi dove le mosche stanno meglio dei cristiani, ma non basta per rivoltarsi. La gente ha bisogno di una spinta. Allora avevate la spinta e la forza. C'eri anche tu sulle colline?» Non gliel'avevo mai chiesto. Sapevo di diversi del paese, giovanotti venuti al mondo quando noi non avevamo 20 anni, che c'erano morti su quelle strade e per quei boschi. Sapevo molte cose, gliel'avevo chieste, ma non se lui avesse portato il fazzoletto rosso e maneggiato un fucile. Sapevo che quei boschi si erano riempiti di gente di fuori, renitenti alla leva, scappati di città, teste calde, e Nuto non era di nessuno di questi. Ma Nuto è Nuto, e sa meglio di me quel che è giusto. «No», disse Nuto, «se ci andavo, mi bruciavano la casa». Nella riva del Salto, Nuto aveva tenuto nascosto dentro una tana un partigiano ferito e gli portava da mangiare di notte. Me lo aveva detto sua mamma. Ci credevo. Era Nuto. Soltanto ieri per strada, incontrando 2 ragazzi che tormentavano una lucertola, gli aveva preso la lucertola. 20 anni passano per tutti. «Se il Sor Matteo ce l'avesse fatto a noi quando andavamo nella riva», gli avevo detto, «cosa avresti risposto? Quante nidiate hai fatto fuori a quei tempi?» «Sono gesti da ignoranti», aveva detto. «Facevamo male tutte e due. Lasciale vivere le bestie. Soffrono già la loro parte in inverno». «Dico niente. Hai ragione». E poi si comincia così e si finisce con scannarsi e bruciare i paesi. Thank you. Fa un sole su questi bricchi, un riverbero di grillaie e di tufi che mi ero dimenticato. Qui il caldo, più che scendere dal cielo, esce da sotto, dalla terra, dal fondo tra le viti che sembra si sia mangiato ogni verde per andare tutto in tralcio. È un caldo che mi piace, sa un odore. Ci sono dentro anch'io a questo odore. Ci sono dentro tante vendemmie e fienagioni e sfogliature, tanti sapori e tante voglie che non sapevo più d'avere addosso. Così mi piace uscire dall'angelo e tener d'occhio le campagne. Quasi quasi vorrei non aver fatto la mia vita, poterla cambiare. Dar ragione alle ciance di quelli che mi vedono passare e si chiedono se sono venuto a comprar l'uva o che cosa. Qui nel paese più nessuno si ricorda di me, più nessuno tiene conto che sono stato servitore bastardo. Sanno che a Genova ho dei soldi. Magari c'è qualche ragazzo, servitore come io sono stato, qualche donna che si annoia dietro le persiane chiuse, che pensa a me come io pensavo alle collinette di Canelli, alla gente laggiù nel mondo che guadagna, se la gode, va lontano sul mare. Di cascine, un po' per scherzo e un po' sul serio, già diversi me n'hanno offerte. Io sto a sentire con le mani dietro la schiena. Non tutti sanno che me ne intendo. Mi dicono dei gran raccolti di questi anni, ma che adesso ci vorrebbe uno scasso, un muretto, un trapianto e non possono farlo. Dove sono questi raccolti, gli dico, questi profitti? Perché non li spendete nei beni? I concimi. Io che i concimi li ho venduti all'ingrosso, taglio corto, ma il discorso mi piace. E più mi piace quando andiamo nei beni, quando traversiamo un'aia, visitiamo una stalla, beviamo un bicchiere. Il giorno che tornai al casotto di Gaminella, conoscevo già il vecchio Valino. L'aveva fermato Nuto in piazza in mia presenza e gli aveva chiesto se mi conosceva, un uomo secco e nero con gli occhi da talpa che mi guardò circospetto. E quando Nuto gli disse ridendo che ero uno che gli aveva mangiato del pane e bevuto del vino, restò lì senza decidersi, torbido. Allora gli chiesi se era lui che aveva tagliato i noccioli e se sopra la stalla c'era sempre quella spalliera di uva passera. Gli dicemmo chi ero e di dove venivo. Valino non cambiò quella faccia scura. Disse soltanto che la terra della riva era magra e tutti gli anni la pioggia ne portava via un pezzo. Prima di andarsene mi guardò, guardò Nuto e gli disse: «Vieni una volta su di là, voglio farti vedere quella tina che perde». Poi Nuto mi aveva detto: «Tu in Gaminella non mangiavi tutti i giorni». Non scherzava più adesso. «Eppure non vi toccava spartire. Adesso il casotto l'ha comprato la madama della villa e viene a spartire i raccolti con la bilancia, una che ha già due cascine e il negozio. Poi dicono i villani ci rubano, i villani sono gente perversa». Da solo ero tornato su quella strada e pensavo alla vita che poteva aver fatto il Valino in tanti anni, 60, forse nemmeno, che lavorava da mezzadro. Da quante case era uscito, da quante terre, dopo averci dormito, mangiato, zappato col sole e col freddo, caricando i mobili su un carretto non suo, per delle strade dove non sarebbe ripassato. Sapevo che era vedovo. Gli era morta la moglie nella cascina prima di questa, e dei figli, i più vecchi erano morti in guerra. Non gli restava che un ragazzo e delle donne. Che altro faceva in questo mondo? Dalla valle del Belbo non era mai uscito. Senza volerlo, mi fermai sul sentiero, pensando che se 20 anni prima non fossi scappato, quello era pure il mio destino. Eppure io per il mondo, lui per quelle colline, avevamo girato, girato, senza mai poter dire: «Questi sono i miei beni. Su questa trave invecchierò, morirò in questa stanza». Arrivai sotto il fico, davanti all'aia, e rividi il sentiero tra i due rialti erbosi. Adesso ci avevano messo delle pietre per scalini. Il salto dal prato alla strada era come una volta, erba morta sotto il mucchio delle fascine, un cesto rotto, delle mele marce e schiacciate. Sentii il cane di sopra scorrere lungo il filo di ferro. Quando sporsi la testa dagli scalini, il cane impazzì. Si buttò in piedi, ululava, si strozzava. Seguitai a salire e vidi il portico, il tronco del fico, un rastrello appoggiato all'uscio. La stessa corda col nodo pendeva dal foro dell'uscio. La stessa macchia di verde rame intorno alla spalliera sul muro. La stessa pianta di rosmarino sull'angolo della casa. E l'odore della casa, della riva, di mele marce, d'erba secca e di rosmarino. Su una ruota stesa per terra era seduto un ragazzo, in camicino e calzoni strappati, una sola bretella, e teneva una gamba divaricata, scostata in modo innaturale. Era un gioco quello? Mi guardò sotto il sole. Aveva in mano una pelle di coniglio secca e chiudeva le palpebre magre per guadagnar tempo. Io mi fermai. Lui continuava a batter gli occhi. Il cane ululava e strappava il filo. Il ragazzo era scalzo. Aveva una crosta sotto l'occhio, le spalle ossute e non muoveva la gamba. D'improvviso mi ricordai quante volte avevo avuto i geloni, le croste sulle ginocchia, le labbra spaccate. Mi ricordai che mettevo gli zoccoli soltanto d'inverno. Mi ricordai come la mamma Virgilia strappava la pelle ai conigli dopo averli sventrati. Mossi la mano e feci un cenno. Sull'uscio era comparsa una donna. Due donne, sottane nere, una decrepita e storta, una più giovane e ossuta, mi guardavano. Gridai che cercavo il valino. Non c'era. Era andato su per la riva. La meno vecchia gridò al cane, prese il filo e lo tirò, che rantolava. Il ragazzo si alzò dalla ruota, si alzò a fatica, puntando la gamba per traverso, fu in piedi e strisciò verso il cane. Era zoppo, rachitico. Vidi il ginocchio non più grosso del suo braccio. Si tirava il piede dietro come un peso. Avrà avuto 10 anni. E vederlo su quell'aia era come vedere me stesso. Al punto che diedi un'occhiata sotto il portico, dietro al fico, alle meliche, se comparissero Angiolina e Giulia. Chissà dove erano. Se in qualche luogo erano vive, dovevano avere l'età di quella donna. Calmato il cane, non mi dissero niente e mi guardavano. Allora io dissi che se il valino tornava, lo aspettavo. Risposero insieme che delle volte tardava. Delle due, quella che aveva legato il cane, era scalza e cotta dal sole e aveva addirittura un po' di pelo sulla bocca, mi guardava con gli occhi scuri e circospetti del valino. Era la cognata, quella che adesso dormiva con lui. Standogli insieme, era venuta a somigliargli. Thank you.